Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ho rubato qualche minuto, spero. Li recuperiamo dopo. Mi perdonate, ma insomma era doveroso anche staccare un po' da Tiziano, insomma, per essere qui con questa band di Free Jam, ma ne parliamo tra qualche istante. Vi ricordo, Blu Radio Veneto in questo momento ancora sempre in diretta qui fino alle 24 con questa fascia oraria chiamata Rock Wave con Agostino, ma soprattutto con Maurizio Calzavara, a presentare questa band, formazione estremamente ridotta questa sera, ma insomma un concentrato che va benissimo lo stesso, e ne siamo veramente felici e orgogliosi di averli qui. Vi ricordo il nostro numero telefonico, quello in studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms vi ricordo è il 346 23 20 0 33. Detto questo, penso che dobbiamo assolutamente dare il benvenuto a questa mini band questa sera in formato ridotto. Ciao ragazzi! Ciao Agostino! Ciao! Benvenuti a Blu Radio Veneto, abbiamo Iari Munari. Buonasera a tutti e buonasera a voi e agli ascoltatori di Blu Radio Veneto. E Davide Candini. Buonasera. Eccoti qua. Eccoci qua ragazzi, avete fatto buon viaggio da Occhiobello, è così? Vicino Ferrara, o tu abiti a Occhiobello? Io sono il più vicino, sono di Occhiobello, ma lui è molto più distante, molto più lontano, Ferrara. Perfetto. Benissimo. Dunque, il progetto nasce nel 1992, un po' di tempo fa. Sì, è un progetto che è nato una ventina d'anni fa. È nato quando io e Davide studiavamo in una scuola di musica, nella stessa scuola di musica, e durante le lezioni di musica d'insieme per la preparazione dei saggi finali, che è un classico delle scuole, sono i momenti più ricchi, c'è un fermento notevole, e abbiamo incominciato a suonare insieme, no? E ci siamo divertiti moltissimo fin da subito. All'epoca c'era un altro elemento che era fondamentale per la band, un chitarrista che si chiama Michele Mazzoli, e la band nacque così. All'inizio abbiamo incominciato facendo del blues, del rhythm and blues, con alcuni gruppi storici del cantautorato rhythm and blues americano, tipo Doobie Brothers. Quindi fa un po' di cover. Sì, beh, ovviamente se all'inizio però un po' più, come si suol dire, pischellini. E poi il progetto è andato avanti per un po', fin da subito abbiamo avuto questa necessità di scrivere pezzi nostri. Importante, pezzi vostri, perché è facile, sì, cover non è facile, però... c'è la predisposizione, i pezzi si sentono, si può provare, ma fare pezzi vostri è un po' più difficile, più complicato il discorso, non è così? Sì, non ti nego che in quegli anni, si parla appunto dei primi anni 90, ma poi la band è andata avanti per un po', poi si fermò, però diciamo fino alla fine degli anni 90 c'era, perlomeno nelle nostre zone, nella nostra zona geografica, c'era un fermento pazzesco tra i gruppi locali, tra i gruppi emergenti, e la prima aspirazione, che poi era anche quella più importante, insomma, era quella di raccontare qualcosa, no? di scrivere, sentire, esatto, raccontare, di esatto. Scrivere, ma anche dal punto di vista proprio, come dire, pratico, non era così necessario per suonare nei locali fare delle cover, per forza. È diventata una moda un po' degli anni successivi, quella di lavorare facendo le cover, oppure addirittura adesso le band tributo, esatto. E quindi per noi insomma era così bello, è stato subito così tanto bello cominciare a scrivere delle canzoni nostre, ed è una cosa che abbiamo coltivato da tutto questo tempo. Poi questo progetto si è ampliato, finalmente siete arrivati a questo disco fatto da voi, cioè stasera siete in due, però il disco... ci sono tanti altri artisti, tanti altri musicisti che avevano dato una mano per completare il progetto di questo disco. Sì, il disco... What About The Funky, già il nome What About The Funky già dice tutto. Certo, perché... perché perché così. Cosa ne pensi del funky, no? Esattamente. Perché? Perché se ti piace il funky, molto probabilmente questo disco ti piacerà. Però non è solo funky, dobbiamo tenere conto di questo. Il funky è un punto di riferimento, però dietro al funky, vicino al funky, al di là del funky ci sono altre cose. Sì. In realtà è un disco pieno di influenze musicali. Il disco che è stato scritto da me e dal mio grandissimo amico Davide. Stasera è la tastiera. Stasera è il performer. Esattamente, il maestro alle tastiere. È un disco in cui c'è il comune denominatore del funky, ma ci sono molte altre influenze, come ti dicevo, che sono il pop, certo, e che sono il rhythm and blues, il soul, e tutto è legato in un modo abbastanza originale, oserei dire. Originale, fatto da pezzi vostri, dobbiamo tenere conto di assolutamente questo. Assolutamente. Un collegamento di tutti i pezzi vostri. Assolutamente sì. Tutte composizioni originali. Esattamente. Che fatica c'è stata per comporre questi pezzi originali? C'è stata fatica, cioè è stato coinvolgimento fra voi due o ha partecipato anche altri musicisti, hanno partecipato alla stesura del progetto? Proprio dal punto di vista proprio fisico, alla scrittura proprio del progetto. No, dal punto di vista della scrittura siamo arrangiati, sì devo dire la verità. Però devo dire con altrettanta sincerità e anche con orgoglio che i musicisti che hanno partecipato, come tu ben sai, danno sempre, anche in questo caso, un valore aggiunto, un valore pazzesco. Certo. Per cui il disco è un disco in cui ci sono molti strumenti, c'è tutto vero, tutto suonato, non c'è niente di campionato, ed è un disco che vede la partecipazione di molti amici, tutti grandi musicisti, alcuni della nostra zona, altri anche esteri, c'è un sassofonista canadese, c'è un trombettista di Los Angeles, possiamo dire nomi, certo, direi, come no, anche per riconoscenza. Facciamo i nomi, facciamo che diciamo un po' per uno, Davide. Allora, Tom Sherritt ai sassofoni, insieme a Claudio Castellari, che ha suonato il baritono, Tom invece ha suonato il tenore, e Scott Steen alla tromba, che è di Los Angeles, che è di Los Angeles. Jack Bertocchi, che in questo momento tra l'altro è a New York, ma perfetto. però è italiano. È italiano, sì. È del bolognese. E poi ci sono i nostri diciamo due compagni d'avventura in questo progetto, almeno in questa nuova fase, questo diciamo ambito così, del progetto, certo, che sono le nostre due altre colonne, insomma, chitarra e basso. Roberto Catani, detto Fusco, che salutiamo perché purtroppo lui, esattamente come Enrico Cipollini alla chitarra, non sono potuti venire qui con noi, quindi hanno lasciato a me lo sporco lavoro del performer. E poi c'è Emanuele Zullo, che invece è un altro chitarrista che ha partecipato con noi alle incisioni. Dobbiamo sottolineare che Yarin stasera non suona, perché lui suona la batteria. Yarin non suona, ma gesticola, suona una batteria microfono di 28 elementi. Perfetto, bella, interessante. Non ci stava. Non ci stava qua dentro. Però ragazzi, sto sentendo che questo tavolo in effetti non suona male. Potresti fare qualcosina dopo, potresti fare. Aggiungo solo che ci sono anche, c'è una traccia molto particolare, magari ne parliamo dopo, sì, che è un brano che è solo strumentale e che insomma ha una sua dimensione, ripeto, particolare, una sorta di parentesi nell'album in cui suona anche un quintetto d'archi. Bello. Quindi certamente quella può essere una parentesi che può aprire altri orizzonti o no? Beh, assolutamente sì. Sentiamo il primo pezzo, cosa dici Agostino? Sì, io sono prontissimo, abbiamo selezionato la traccia numero 7, se non sbaglio. Sì. Che si dice, che si titola Questa luce, Deadline, giusto? Okay. Deadline. E ci volete presentare qualcosa su questo pezzo o sì, lo facciamo ascoltare e le parliamo dopo? Con grande piacere, stai lanciando il pezzo che noi consideriamo il singolo del disco e il pezzo di lancio del disco, un brano secondo noi il più importante del disco per un discorso di contenuti, sì, perché descrive il momento in cui viene a mancare una luce, una di quelle luci guida, no? Sai, quelle luci, sì, che ti guidano per tutta la tua esistenza, e nel momento in cui ti manca sei molto spaesato, però poi ti accorgi che è stata talmente chiara quella luce, ti ha descritto la via da seguire talmente bene che tu passi dallo smarrimento al trovare la strada in automatico e ti rendi conto del valore di quella luce. Come spesso succede, ti rendi conto dell'estremo valore delle cose quando le perdi un po', no? Vero. Però il significato di questa canzone è molto profondo per questo motivo, per il fatto che spesso crediamo di essere smarriti, ma poi abbiamo ricevuto un insegnamento così importante che esce e ti fa trovare le risposte alle domande che ti poni, anche quando meno te lo aspetti. That Light. L'hai scritta tu questa canzone? Questo è un brano che abbiamo scritto insieme, io e Davide, come la maggior parte delle canzoni del disco. E... quanto ti piace questa canzone? Beh, insomma, come l'ascoltiamo, non ti voglio male. Già da come mi trema la voce, capisci? Infatti, per quello ti vedo molto emozionato. L'ascoltiamo, That Light. The sky was so clear. Now those days were the good ones. Sailing the seas was easy for me. Always had a safe place to run. Then one day came the shadow, covered every sea and meadow, and I was lost. Trying to find the way through blindness and to leave the land of darkness at any cost. I was searching for a guiding light, just a light to guide me through the night. So I rubbed my hands upon my eyes, clearing out the mist I felt inside and those tears I couldn't hide. Seconds in dreams since we were here together, sailing the seas and you beside me, taking care of the weather. When the shadow came upon us and I tried to keep you close and disguise my fear, laying on the water surface, pronounce some liquid words I could hardly hear. You said, son, you soon will find the light, a shining light to guide you through your life. It's a light that you must seek inside, for that light will help you clear the night and the tears that you should never try. Surprise you, so today I sail without you, and that's a fact. 'Cause I finally can see that light after seemingly eternal fights. Only now the shadow leaves my eyes. Only now I can see clear blue sky. 'Cause I finally can see that light. You're a light. Allora, due cose su questo pezzo. Come hai arrangiato ad organo, cioè come a tastiere questo pezzo, che ha un riff molto interessante, una predisposizione al ballo, al movimento, però attenzione ragazzi, non è un pezzo funky, è un pezzo, il funky viene leggermente poi coperto dal pop, questo è un pezzo pop al 100%. È un pezzo pop. Mm. Questo è un brano sicuramente che descrive bene quello che scorre tra le vene. È una terra di confine, vogliamo dire. Una terra sì. Di confine. Noi sicuramente abbiamo fatto un progetto che ha un'impronta prevalentemente funky. Mm. Prevalentemente. Prevalentemente. Mm. Ma lo presentiamo mettendo avanti come alfiere un brano che secondo me rappresenta quello che è il tentativo di diffusione di generi, ma per motivi molto semplici, perché noi, come ti raccontava Yarin all'inizio, abbiamo avuto la primissima formazione del 92 e suonavamo tutt'altro. Certo. Suonavamo quello che probabilmente ascoltavamo all'epoca, e lo spirito del progetto è sempre stato quello, e da lì anche il nome in un certo senso, il free jam, se lo traduci. Quindi free vuol dire assolutamente libero, e quindi la libertà totale, sì, di fare, di gestire, di fare jam. Di fare jam, di jam vuol dire jam session, cioè unire, esatto, unire i suoni. C'è un po' di questo, c'è anche un po' di marmellata gratis, sicuramente. Beh, sì, insomma, fa sempre bene infatti, la salute. Infatti, io me la volevo fare verso la fine della domanda, perché mi sto facendo la collina in bocca con questo disco, con tutti questi vasetti di marmellata, candy fruit. Dove l'avete beccato questa? Allora, il nome ha un'origine in realtà come sempre casuale, come le cose che ti suonano meglio sono sempre quelle che ti vengono in mente così per caso, no? Certo. Il nome nasce da un brano di Jeff Beck, Freeway Jam, che fa parte di Airblower, quindi è un CD storico di Jeff Beck. Mito di Maurizio. Anche mio. Anche mio. È un po' di tutti noi, immagino. Chi suona la chitarra non deve dimenticare Jeff Beck. Esatto. E quel brano che era un brano che ascoltavamo all'epoca così, ma più che altro ci piaceva il titolo, insomma, onestamente, abbiamo detto vabbè, diamogli un taglio, invece di Freeway Jam chiamiamoci Free Jam. Okay. Ma questo ha preso poi perché un po' significa suonare in piena libertà, un po' descrive quella che era l'idea iniziale, ovvero di mettiamoci insieme e ognuno deve sapere che in questo gruppo può suonare e proporre di suonare qualsiasi genere. Quindi l'idea, c'era chi di noi studiava jazz, c'era chi studiava per suonare il rock, c'era chi studiava per suonare tutt'altro, e mettendoci insieme è nato questo spirito, secondo me, del progetto, che in 20 anni non è mai cambiato. Uh-huh. È l'unica cosa che non è mai cambiata. Però lo spirito è rimasto, così importante. Lo spirito è rimasto. E ritornando a questo pezzo, c'è la tua tastiera, c'è la batteria di Yarin. Ecco, la batteria come l'hai usata? Che caratteristica gli hai dato? Che colore gli hai dato per dare un pezzo di questo genere? Visto che tu di batteria te ne intendi. Hai suonato per parecchio tempo con molta gente e hai dato il tuo contributo alla batteria. Guarda, l'idea dell'arrangiamento di questo pezzo è stata fin da subito quello di parlare di un argomento importante, come ti descrivevo poc'anzi, sì, però di farlo in modo assertivo. Mm. No, quindi ho pensato subito, avendo curato io gli arrangiamenti nella maggior parte dei pezzi del disco, ho pensato subito di volere creare questo effetto così assertivo, no? Qualcosa che fosse incalzante, che però riuscisse nello stesso tempo a trasmettere un'idea importante, un po' malinconica allo stesso tempo. Non è facile, no? Essere incalzanti e riuscire ad essere profondi contemporaneamente. Di solito o sei incalzato o sei profondo. Esatto, le due cose. Ci riesce il blues. Ci riesce il blues. In questo brano in cui non c'è blues, è vero, tutto sommato, c'è del blues, però. Bene. E quindi, come tu hai notato fin da subito, c'è questa ritmica incalzante della batteria, del basso, e queste armonie più pop, più leggere. Leggermente pop, esatto. Decisamente pop. Esatto. E per niente il singolo. Al di là di tutti i discorsi commerciali che non si devono fare, musicalmente il singolo è sempre stato un pezzo che deve accattivare le simpatie, che deve entrare in mente, in testa, esatto, e girare. Questo è il singolo, una volta si usava così. Anche adesso, perfetto. Okay. Poi vediamo se funziona. Certo. Beh, da noi è funzionato, io spero anche negli altri posti, chiaramente. Quanto ci avete messo a fare questo disco? Tantissimo. Sai, ti dico solo una cosa. Allora, in realtà il CD, voglio essere onesto, visto che Maurizio mi ha detto, e io ho apprezzato molto questa cosa, che questa è una radio vera, no? Dove si dicono Allora, questo progetto, l'idea di registrare il CD è nata 2 anni fa, il che significa che volendo probabilmente poteva essere pronto prima. però durante questi 2 anni abbiamo imparato di nuovo a lavorare insieme e quindi ci siamo presi il tempo per scrivere. Alcuni brani di questo album in realtà sono stati scritti nel lontano 1993 e tenuti nel cassetto. Da te, sempre da te? Da noi, sì. Sono sempre progetti, cioè sono sempre brani nati da me, Yarin. Tu scrivi alcuni di questi anche. Tu scrivi i testi e lui la musica, vero? Giusto? Così sì, più o meno. Diciamo che grosso modo c'è questa spartizione un po' detta, un po' non detta. Democraticamente. Ma in alcuni brani io ho anche partecipato alla musica e invece in alcuni brani lui ha scritto anche il testo. Ah, bello quindi, questo. Quindi diciamo che c'è stato un po' di. Sì, siamo abbastanza complementari. Senza grossi problemi di esondare nel campo dell'altro, insomma. E, però ecco, il progetto ha richiesto 20 anni per arrivare a questo punto, ma 2 anni di lavorazione effettiva sul CD con, oserei dire, probabilmente 6 mesi di lavoro effettivo in studio. Quindi un bel po' di tempo. Un bel po' di tempo. Ma ci vuole, quando le cose vanno fatte bene. Speriamo che ne sia valsa la pena. Certo. Il disco quando è che è uscito? Il disco è uscito ad aprile. Quindi un paio di mesi. Insomma. Sì, recente, fresco, molto fresco. Recente. Sì, sì. E già mi dicevi a microfono spento che già all'estero comincia a girare bene, oltre in Italia. L'estero ha un buon appel, come si dice, un buon contatto, possiamo dire così. Beh, devo dire, non ci lamentiamo nemmeno dell'Italia. Beh, ecco. Esattamente, però anche all'estero però, è bene. Sì, con grande piacere, siccome questo progetto è nato anche con quell'intento, cioè con l'intento di esportare. Arrivare. Esatto. E devo dire con piacere che stiamo avendo dei risultati in diverse zone d'Europa e anche d'oltreoceano. Olanda, Svizzera. Inghilterra, bene. Arizona, quindi America, quindi America, United States, a stelle e strisce, sempre bene alla salute. Esatto. Un giretto dalle parti di Filadelfia, magari, cioè, che è una delle basi delle parti del funky. Non ci dispiacerebbe passare dalle parti di Sacramento. Però se andate vengo anch'io con voi, perché lì ci sono tanti miei idoli di cantanti. Allora, ci ascoltiamo qualcosa dal vivo o volete ancora qualcosa dal disco? Scegliete voi, a libera scelta. Beh, io direi, visto che sono venuto, ho fatto la fatica di portare questo splendido strumento. No, vorrei farvi sentire, ed è assolutamente un esperimento, uno dei brani del CD, visto che insomma mi sembra giusto cominciare con uno di quelli, un brano che non vi farò però sentire in originale, così magari qualcuno non può dice, ma chissà com'è sul disco, no? Il brano si chiama This Time, ed è un brano che vi presento dopo, magari ve ne parlo. Ok, e la canzone si chiama? Si chiama This Time e in poche parole questa volta è un pezzo di Sono Stufo. Give more down in school. I gotta give more to be cool. I gotta give more to rise up in the world. I gotta keep my hand holding my steel sword. They all say that I'm no good and they still think I'm not brave like a younger man should. Well, if you say that you agree, don't keep on spending your days with me, 'cause I'm only what you see. And you gotta give more everywhere. I got to give more if I can. Everywhere I got to give more if I can. If I care, maybe this time. this time. Oh baby, since I was a kid, my mother told me love is just like an oak tree seed. And if you want it to grow strong, you always remember that you have to feed it for so long. And you gotta give more everywhere. I got to give more if I care. Mm-hmm. Everywhere. I got to give more if I care. To give more if I care, if I care. Well, maybe you don't like the way I live, you don't like the way I talk, you don't like the way I kiss, and you don't like the way I love. No, baby, find another man. Time. I don't care. Maybe this time I don't care. Well, maybe this time I don't care. Maybe this time I don't care. Well, maybe this time I don't care. Well, maybe this time I don't. Perfetto, abbiamo visto Yarin che dava l'ok, non aveva la batteria ma dava l'ok, potevi poi battere anche sul tavolo. Allora la prossima batti sul tavolo. Dobbiamo dire che, non so se Agostino è d'accordo, hai dato una colorazione molto soul questo pezzo, anche nel cantato, decisamente soul. Cosa dici, Davide? Io l'ho sentita così, anche se nel disco non è proprio così, assolutamente, è più una è un po' diversa, qui è molto soul, mi pare giusto che sia così. Sì, sono d'accordo con te, nel senso che sicuramente quando si usa il proprio strumento e la propria voce si arriva a quello. Si arriva a quello perché bisogna, insomma, mettere in risalto magari più il contenuto, l'anima, più l'anima. Il contenuto spirito, sì, ecco. L'anima praticamente. Però sicuramente il brano si presta, nel senso che questo è un brano, ad esempio, dal punto di vista dei contenuti, è certamente un brano. Questo è uno di quelli nati nel 93-94, per cui anche un contenuto un pochino più ribelle rispetto ad altri. Sono passati 20 anni ormai. Certo. Magari su certe cose rimane quell'idea, ma oggi la diresti in modo diverso. E vi dico, questo testo è, con qualche piccola modifica, ma è un testo di 20 anni fa. Quindi, come dire, un testo che parla di, poche parole, quello che oggi noi siamo costretti, e non ha perso secondo me il suo valore di attualità, insomma, quello che oggi siamo costretti a volte a fare, non tanto per noi stessi ma per l'idea di poter essere accettati, a volte, e in questo caso questa volta, come dice il titolo del brano. Questa volta forse non lo voglio fare. Preferisco tenermi, tanto a tradimento, Agostino. Tirato fuori la traccia dal CD. Allora non lo sente nessuno, tipo. No, sì. Però ecco, sì. Ma mi piace che tu abbia percepito questa così. Sì, nel disco è leggermente deriva più soul. Sì, più veloce, leggermente più veloce. E qua è meno veloce, più lento, e quindi più soul, nel senso positivo del termine. Certo. E tu hai detto, per me è un grosso complimento. E tu hai detto, è un brano di 20 anni fa, del 1992-93. Era già costituito anche la musica o c'era solo il testo? Sì. C'era anche la musica. C'era già la musica, ma... Cosa è stata cambiata rispetto a 20 anni fa? Questo è interessante, farei parlare Yarin. Dimmi che cosa è cambiato rispetto a 20 anni fa in questo pezzo. Abbiamo cercato di renderla più legata al testo. Siccome il testo è di protesta, è un testo, come spiegava poc'anzi Davide. La musica è ricca di obbligati, di frasi, senza entrare troppo nello specifico, comunque di frasi all'unisono, tutti insieme, che vanno a, diciamo così, ad accentuare dei momenti ben precisi della melodia e del testo associato a quella melodia lì. Per cui lo sforzo è stato quello di... Ma non è anche tanto uno sforzo, ci è venuto abbastanza, sai, poi siamo un po' più vecchi, quindi... Mentalità diverse. Sì, un po' più, uno sguardo un po' più ampio, no? Ce l'abbiamo. Più maturo, via. Esatto. Diciamo così, maturi, siamo più maturi, dai, più bello. Meno giovani, via. Sì, all'epoca, proprio perché eravamo, diciamo, l'ispirazione al nome Free Jam, no? Questo senso di sperimentare, ci portava all'epoca ad essere... molto sperimentali, e quindi all'interno di alcuni brani avevamo diversi stili, sì, uno spettro un po' più ampio, forse. Sì, eravamo un po' meno coerenti dal punto di vista musicale, no? Rispetto, stilistico. Sì, soprattutto rispetto al testo. Avevamo voglia di sperimentare, era il momento in cui dovevamo sperimentare, no? Poi pian piano capisci, hai una visione un po' più ampia, riesci a capire in che modo sottolineare meglio certe idee, certi contenuti, e ma, non hai nemmeno bisogno di dover per forza, no, dimostrare. Certo. Ma questa canzone, una volta che l'avete scritta 20 anni fa, poi l'avevate proposta in qualche concerto vostro o in qualche situazione? Assolutamente sì, noi abbiamo avuto un'intensa attività concertistica fino al 2002, sicuramente. Esatto, sì. Quindi 10 anni buoni di concerti. Esatto. Sì. Però le possibilità in quegli anni di registrare erano molto diverse. Erano altri anni. Economicamente anche? Economicamente, ma anche sì, di conseguenza, dal punto di vista tecnologico, andare in uno studio di registrazione era una cosa rara, cioè costava molto, quindi servivano delle sovvenzioni che non avevamo. Infatti adesso ho uno studio, la prima cosa che abbiamo pensato di fare quando ci siamo rincontrati ad una jam session, qualche tempo fa, io e Davide, un po' di anni fa, la prima cosa che... finita la jam session che abbiamo pensato è stato: ma perché non farlo? È chiaro, giusto. Beh, giusto. Adesso ci sono i mezzi. Ci sono i mezzi, e poi sai, quando hai delle canzoni scritte 20 anni prima rimane un legame, no? E... dicono che le canzoni sono sempre figli tuoi, no? Cioè chi le scrive sono sempre dei figli. Giusto. Ormai maggiorenne. Però insomma restano sempre cose tue, insomma, quindi sì, anche sì, se sì, passano gli anni, qualcosa... Passano gli anni. Cambiano i modi di intendere alcune cose, sì, a livello effettivo sicuramente. Ma la cosa straordinaria è che, come diceva Davide prima, arrivi a dire le stesse cose, cioè arrivi ad esprimere gli stessi concetti in un modo diverso, no? Con una maturità diversa, e questa cosa aumenta l'affezione al brano. Certo. Maurizio. Sì, no, tu hai detto una frase giusta, una maturità diversa, perché si è maturati in 20 anni, le cose... sono cambiate, sì, ma non sono cambiate radicalmente. Gli input, bene o male, di questo pezzo ci sono venuti fuori, l'avete arrangiato, avete forse ampliato determinati spettri musicali, però l'idea va sempre avanti, non si ferma. E non fermandosi bisogna portare avanti un discorso. E questo è un discorso di jam, di unione dei suoni, i jam, cioè jam Interplay. Vuol dire unione dei suoni. Questo è l'importante di questo disco, secondo me. Nasce da questa idea di jam. Tutti i musicisti che gli hanno dato una mano contribuiscono a fare una jam session, cioè un suono unito. Assolutamente. Sì. Vale, non avrei potuto dirlo meglio. Bene, ti scopro filosofo. Sì, sì, sì, sì. Allora, Blu Radio Veneto, sono le 22:41 di questo mercoledì di giugno, con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzevana, ma soprattutto con loro, con i Free Jam, il loro What About the Funky, il loro disco uscito da pochissimo, insomma, pochissimo, fresco fresco. Ci siamo ascoltati questa acustica This Time, e adesso invece cosa ci ascoltiamo? O vuoi fare... con te che ne fai da vivo? Ho detto stasera 7-8, vero Maurizio? Cosa parla? Minimo quelli di una mano, poi vedremo. Beh, ascolta, l'ha detto lui che si è portata la sì, tastiera, vuoi non la farlo tastiera, lavorare. Esatto, la tastiera io posso lavorare in eterno, ma il mio mestiere è questo. Guarda, non c'è un musicista che è venuto qua che non mi dica una cosa diversa dalla tua. Tutti vogliono suonare, quindi più suonate noi, guarda, siamo contenti. Ti faccio un altro brano Un altro brano che non vi faremo sentire dal CD, a meno che Agostino a tradimento non, poi non mette sì, sulla poi traccia. Lo facciamo magari finché ne parli. Un brano che si collega per certe cose a quello di prima, però magari lo faccio più breve. Bene. Perché poi c'è. Il brano si chiama Dancing in the Street. Many things going on these days, why should I care? Read the papers or watch the news, they're everywhere. When you're young, you don't give a damn. You just trash them as daily spam. Growing up is a total shit. Tell everybody that you meet, we should be dancing in the street. Violent coffee for breakfast and corruption cream. Lunchtime with massacre salad in a crimson stream. Have your evening pollution drink with whatever they want you to think. You can't believe what you're forced to eat. We all should feel it in our feet. We should be dancing in the street. Can you feel it? Can you feel it, baby? Can you feel it? Can you feel it, baby? Can you feel it? Can you feel it, baby? Can you feel it? Can you feel it, baby? Can you feel it? Can you feel it, baby? Can you feel it? Can you feel it, baby? Can you feel it? Can you feel it, baby? Can you feel it? Can you feel it, baby? Wow. Mi ricordate per certi versi, passami questo qua. Avete sentito un errore nel mezzo, ve lo dico? Non l'avevo perché sentito. Fare i pezzi come si dice, senza gli altri, per me è sconsolante. Ah, ecco. Dicevo che mi ricordavi in questo passaggio così, forse uno dei big della musica funky di quegli anni. Aiuto. grazie. Potrebbe farti un regalo. Lo sei. lo conosco, lo so... Una macchina nuova. Sì. No, però, potrei, ma no. Anche musicalmente comunque ci avvicini molto, insomma. Beh, lui è sicuramente uno di quegli artisti, insomma, che penso abbiano modificato molto all'interno del mondo della musica. Certo. E parlo di modificato nel senso che hanno preso ciò che c'era e lo hanno rielaborato, no? Certo. Penso che, a parte il fatto che per qualsiasi pianista cantante probabilmente Stevie Wonder è un po' il simbolo di qualcosa, come lo è stato Ray Charles, insomma, e Billy Joel, ecco, ce ne sono diversi che mi piacciono e anche di nature proprio diverse, però... The Song of Key of Life credo sia un capolavoro che... Dopo magari vi faccio anche una di quelle, ma insomma. Ah sì, ma sì, dai, me lo so bene. No, però sicuramente Stevie Wonder è quello che, tra l'altro, tra le nostre cover che facciamo nei live c'è anche un brano proprio di Stevie Wonder che è Higher Ground, probabilmente uno dei brani più funky di Stevie Wonder, se vuoi, sotto certi aspetti, ma è per me è un punto di riferimento, ma è comunque è un punto di riferimento per molti musicisti. Immagino. Anche se in questo pezzo hai fatto una cosa molto interessante, secondo me. Hai rallentato il motivo l'hai quasi azzerato e poi hai ripreso lentamente, progressivamente, fino ad esplodere. E qua io continuerò a dire, a me somiglia a Billy, ricordi Billy Preston, c'è poco da fare. E i Rolling più o meno vanno sempre dentro su ste robe, che i Rolling sono sempre dentro nel funky o nel e i Rolling sono sempre, vedi, c'è poco da fare. Potevi lasciarlo continuare, sì, io sì, ma me. Vai. Questo era Billy Preston che suonava Keith Emerson. Esatto. Era un honky in trend. Cioè, questo è il pezzo. Come hai fatto questo pezzo? È interessante perché ti sei fermato e poi hai ripreso. Una specie di stop and go che fa Yaring spesso volentieri nella batteria. Sì, sì, è una. Secondo me, è un modo per mettere in evidenza certi aspetti del brano. Certo, può certo. esserci una sottolineatura, come può esserci semplicemente il tempo di prendere fiato anche a chi quello. Ascolta anche quello. Però anche possiamo dire, non so se sei d'accordo, io posso anche pensare che una sottolineatura pop a questo pezzo, poi chiaramente no, ma ce l'aveva. L'inizio era molto accattivante, molto divertente. Quando hai cominciato ho visto lo sguardo che hai fatto a Iari e mi diverto adesso, hai detto subito. Poi hai rallentato il divertimento, ma all'inizio era proprio così, era un divertimento pure. Sì. E il pop può essere anche un divertimento. Beh, certo, ma il pop adesso dico la mia sul pop perché sono io ne sono particolarmente preso sotto sue certe forme. Yaring è un po' jazzista perché ha suonato molto con i musicisti. Ma Yaring in realtà è anche molto bravo. Io poliedrico, possiamo dire. Torno a voglio sottolinearlo perché è un aspetto che per i batteristi spesso probabilmente non si percepisce. Ma i batteristi sono musicisti a tutti gli effetti. Certo. Nonostante io li chiami percuotipelli. Percuotipelli. Io sono uno spingitasti, loro sono percuotipelli. Però la cosa importante è che un musicista è tale se ovviamente conosce un po' tutto il mondo musicale, certo. Quindi anche le armonie, le melodie, l'arrangiamento. E Yaring da questo punto di vista è, con mio grande stupore, un arrangiatore molto abile. Tutto quello che sentite sul CD è arrangiato da lui. Io sono stato un mero autore esecutore, ma gli arrangiamenti sono suoi. Quindi, secondo me, questo dà un'idea anche proprio di quanto pop possa essere, sì, lui. Yaring non è un musicista di retroguardia. Di solito i batteristi sono di retroguardia, ma ce n'è uno famoso che tu ricordi, John Heisman dei Colossio, che non era di retroguardia, era proprio d'avanguardia, era proprio davanti, era un batterista. Cioè, quello, non è vero che il batterista è dietro solo dal punto di vista fisico, perché ma non è detto neanche quello, può ma essere proprio davanti. Il nostro amico Tiziano Mazzoni prima nell'intervista ha detto una cosa che mi ha molto colpito, che lui quando scrive le canzoni pensa come prima cosa al testo e all'ambiente ritmico. Ok. Perché? Perché la musica nasce in questo modo. Una delle forme più comuni di scrivere la musica è pensare ad un'idea di testo, ad un'idea, no, intellettuale, insomma, a una storia, e associarla subito ad un mondo musicale. La prima cosa che fai quando fai un arrangiamento è, quasi sempre, ovviamente ci sono le eccezioni, è pensare ad un ambiente ritmico, alla ritmica, certo. Perché è la base sulla quale costruisci tutto l'arrangiamento. Quindi basso e batteria, praticamente. Sì. Questo non significa che un disco arrangiato da un batterista sia tutto percussione e basta. Però infatti ci sono dei pezzi in cui non c'è la batteria nel disco. Però le vostre canzoni nascono con una semplice chitarra, o sbaglio? Parecchie. Però col piano, insomma, quando scrive lui, io di solito scrivo con la chitarra, Davide scrive col piano. Nuda e cruda, insomma. Chi è che viene l'ispirazione? Vabbè, a parte tu, insomma, che sei quello l'artefice maggiore dei testi, se non sbaglio, Davide. Ma sì, allora io sicuramente sono chi mette giù, come si dice, la maggior parte dei testi, però le idee in realtà ci nascono insieme. C'è un esempio che è un brano che abbiamo scritto appositamente per il CD, è un brano che ha non più di un anno, ed è I Can't Live a Lie, uno dei brani del CD, in cui in realtà il brano è nato quasi in sala prove, e tutto musicalmente del brano è nato da Yaring. Il testo è nato come una sorta di suggerimento, no? Cioè, mi suona bene questa cosa e io da una serie di suoni che lui ha fatto ho tolto questo I Can't Live a Lie, no? E l'hai inserito dentro. E ho detto, ma cosa può voler dire? Perché poi a volte i brani nascono anche così. Cioè dici, questa cosa suona bene, ma che cosa posso esprimere con quel suono? E per me, onestamente, questo è un modo abbastanza, se vuoi, naturale di scrivere. È un po' come se la musica ti suggerisse il tema che lei deve portare, no? È una cosa però anche assolutamente che trascende la mia comprensione, ma insomma, a volte succede così. Però anche per te le canzoni sono autobiografiche? O sono frutto di fantasia? Allora, io non metto mai un episodio direttamente autobiografico, però ovviamente alla base di qualsiasi cosa tu scriva c'è sempre una tua sensazione, un tuo ricordo. Io penso che questo sia inevitabile, come diceva Tiziano prima. Poi magari vedi le cose da punti, provi a vedere, a mettere in testo, in liriche, questo ricordo da un punto di vista diverso. Però sicuramente non puoi prescindere dal tuo essere, certo, dalle tue percezioni, insomma. Quindi sicuramente do ragione a Tiziano, assolutamente. Ma se posso aggiungere, maestro? Ma prego, ma prego. Devo dire che Davide è un grandissimo autore di testi. E, perché lui ci facciamo i complimenti. Ci facciamo, siamo abituati così. perché oltre ad avere una capacità di costruire delle frasi su una metrica musicale, che è difficilissimo, è anche un grandissimo narratore, al punto che riesce anche a creare dei testi su idee che gli suggeriscono gli altri, che è ancora più difficile. È proprio questa capacità innata che ha, a mio avviso, di riuscire ad incollare delle parole di senso compiuto e di un certo senso anche. Questo voleva farmi un complimento, sì, lo dico a chi si sta ascoltando. No, ci mancherebbe. Riuscendo ad agganciarsi alla metrica di una melodia che quasi sempre nasce prima. Anzi, direi che nel disco... Sì, nel caso dei Free Jam sicuramente la cosa portante prima del testo è la melodia. Questo è come sono nati tutti i brani sempre dei Free Jam. Prima la musica e poi il testo. Sì, sì. E tra l'altro riprendo ancora Tiziano, che prima tra l'altro abbiamo ascoltato tutta l'intervista, è stata molto interessante. Io l'ho trovato molto ispirante, come dire. Trovo che molte delle cose che ha detto siano giuste, soprattutto, e questo lo voglio dire per chi magari si chiede ma come mai questa band fa brani in inglese, no? Infatti te lo volevo chiedere, ti giuro. Tu mi hai tradito perché mi sono sulle basi dei brani, però io ti sto tradendo perché ti frego le domande, vedi? No, perché secondo me non c'è, allora, prima di tutto non c'è chiaramente una volontà di non scrivere in italiano. Io altre cose le ho scritte in italiano, ma trovo che sia intanto il funky, cioè se uno vuole fare del funky è chiaro che ha in testa certe sonorità, comprese la lingua che si canta, però questo non vuol dire che nessuno possa riuscire un giorno a scrivere un brano funky in italiano. Qualcuno ci ha già provato, ecco. No? Tipo no. Zucchero. Bene, ecco, però Zucchero, come vedi, scivola sempre ogni tanto sull'inglese tra le cose d'effetto. È vero. Però io dico, onestamente, ho sempre detto, io trovo che il rispetto per la mia lingua sia talmente grande che se non riesco a scrivere bene in italiano non lo faccio, certo. No? Ma ci sono tanti cantautori invece molto bravi con l'italiano. Prima si parlava di De André, voglio dire, De André, De Gregori. Io penso che ci siano Lucio Dalla, certo. Ce ne sono tanti che hanno sicuramente la capacità di farlo nel modo giusto, e onestamente non so se sul funky mai qualcuno riuscirà a farlo, ma puramente per un motivo di genere, di stile, insomma. E io non ne sarò capace sicuramente. Perché? Mai dire mai. Mai dire mai, secondo me. Ma chissà. Magari ti dà la mano lui e sei a posto. Appunto. Volete riposarvi un pochino? Facciamo ascoltare la title track o vuoi suonare ancora? No, mettiamo su la title track. Sennò sentite anche come suona Yarin. Te lo sei portato per cosa? Allora, i Free Jam con il title track di questo disco che si intitola per l'appunto What About the Funky? Like a junkie, talk about it. Can you catch the monkey? Try to catch it. If you don't wanna be a donkey, think about it. What about dancing? Move your butt right now. What about jumping? Bend your knees right now. What about clap your hands. What about singing as loudly as you can right now? What about the funky? What about it? If you don't want to be a flunky, stay around it. You're gonna be so lucky. So freaky. Think about it. What about dancing? Move your butt right now. What about jumping? Bend your knees right now. What about grooving? Move and clap your hands. What about singing? Pensando di mettere su delle telecamere per far vedere come ballano questi amici. Direttamente. No, abbiamo sentito il finale del pezzo, che è il classico finale di Jam Session. Si chiude così. Doveva chiudersi così, c'è poco da fare. Tu hai una bella voce. L'hai già fatta sentire adesso qui in diretta come Kroner. Chitarra, cioè tastiera e microfono. Yari è qui davanti, dà le direttive. Dalle direttive. Però ha detto che adesso che suona sul tavolo, ha detto lui. Qualcosa suona sul tavolo. È una bella voce, cioè è una voce che si interseca perfettamente rispetto all'ambiente degli strumenti, ai suoni. Sei proprio al centro, la sento proprio al centro dei suoni. è proprio voluta al centro di suoni, sempre in mezzo, come si dice in Veneto, sempre in mezzo, sì, sì. E non la chiudiamo esattamente. No, è importante questo. Beh, è importante, ma è anche, era anche un po' inevitabile, nel senso che io questo timbro ho e questo modo di cantare ho, e quindi penso sia soprattutto bello che, insomma, che nel disco ci sia un equilibrio tra le diverse cose, e questo per noi è sicuramente aver raggiunto, ecco, un po' quello che ci eravamo dati come obiettivo, riuscire a fare un disco nel quale si potessero sentire diverse influenze, perché comunque quello che abbiamo messo in evidenza con il titolo e con diversi brani è l'anima e la vena funk, funk o funky a seconda di dove lo vuoi dire, però intorno ci stanno tante altre cose, sì, insomma, c'è il soul, come dicevi tu, c'è la black music in generale, perché comunque c'è anche qualche arrangiamentino disco anche in mezzo, tra l'altro c'è un po' di anni 70, un po' di anni 80, un po' di anni 90, insomma c'è un po' noi di li tutto, ricordiamo bene, vero Maurizio? decisamente, noi abbiamo una certa età rispetto a quei giovincelli che abbiamo qui presenti stasera. Sì, è bello, cioè il discorso dell'essere il centro della voce, Yaring che ha fatto gli arrangiamenti, l'idea del centro della voce, cioè gli strumenti intorno, in contorno, non un contorno, intorno è diverso, non è un contorno, che non fraintendiamo. Perché hai avuto questa idea, avete avuto questa idea? Nel mio background professionale c'è una discreta esperienza con... Tanta gente. Con tanta gente, con molti cantautori. Io vado a prendere un caffè, perché intanto che cosa ti ha portato l'esperienza con suonare con tanti cantautori, Yari? Cosa ti ha portato musicalmente? Beh, tantissimo, su molti fronti, perché innanzitutto dal punto di vista strumentale, puramente musicale, ho avuto l'opportunità di imparare, di suonare, di confrontarmi e soprattutto di imparare da moltissimi musicisti di un talento incredibile, straordinariamente bravi, che gravitano attorno a questi cantanti, diciamo, famosi. No, io ho lavorato molti anni a contatto con questi musicisti e quindi c'è stata una crescita musicale in generale, proprio non solo batteristica, no? E quindi anche dal punto di vista dell'arrangiamento e soprattutto ho imparato a capire, lavorando con questi grandi cantautori, che quando c'è un testo, c'è un argomento, c'è una storia. E nel momento in cui esiste questa cosa, la musica deve ruotare attorno a questa cosa. Ecco, hai detto una cosa giusta, deve ruotare intorno a questa cosa. E quindi hai ripreso queste movenze, queste idee nel disco assieme con Davide, assolutamente, chiaramente. Rispettando il suo timbro, rispettando la sua, ovviamente, tonalità preferita e rispettando l'idea della scrittura a livello di storia, ma anche a livello di sound che ci eravamo un po' prefissati. Spesso abbiamo cambiato direzione, per esempio That Light, il primo brano che avete fatto sentire questa sera, è un brano che ha subito diverse variazioni prima di arrivare a questa, cioè l'avevamo registrato, poi non ci piaceva, l'abbiamo riregistrato, ed è una cosa che quando c'è la possibilità. Adesso sta citando un cantautore, lui. Forse lo conosci. Forse Yari lo conosce. Al di là di questo, lo conosci. Parliamo. No, ma continua il discorso. È interessante questa cosa che dici, perché in realtà c'è un legame strettissimo. Potrebbe non sembrare, ma c'è un legame strettissimo tra il cantautorato e il nostro disco. Perché è un disco, come insomma, ti stiamo dicendo da un po', dove c'è del funky, dove c'è molta musica e dove ci sono dei testi che spesso sono leggeri, altre volte sono più importanti come concetto, però è tutto creato per dire qualcosa, no? Quindi molto spesso nei brani un po' più, tra virgolette, scemi, c'è un arrangiamento un po' più libero, c'è un senso di gioia diverso, no? Tipica del suonare free, free come free jam, no? e mentre in altri, quelli con i testi più impegnati, c'è un'idea di arrangiamento un po' più certosina, più ricercata. E questo è, per ricollegarmi a quello che hai detto, che trovo che sia una cosa interessantissima, per farti capire il legame che ci può essere tra questa forma musicale e, per esempio, una forma tipicamente cantautoriale italiana, ma che poi, se andiamo a vedere, è una cosa che ci lega un po' anche alla musica d'oltreoceano. Insomma, ci sono tanti esempi. In genere, quando c'è una voce solista e un testo, l'arrangiamento ha sempre a che vedere con quello che stai dicendo. Questa è una cosa molto importante. Benissimo. Quindi i brani sono nati, sono sviluppati, sono ingranditi, al di là che alcuni erano stati scritti 20 anni fa, con questo concetto, con questa idea che è stata portata avanti. Quindi al centro la voce, con quegli strumenti che ruotano continuamente, e questo è importante. Ribadiamo che è un concetto che dà proprio la base a tutto il disco. Se mi permetti aggiungo una cosa. Dimmi. Un'altra cosa caratteristica di questo disco è che, nonostante ci sia una voce solista, sì, c'è un po' la concezione jazzistica del sound, che in realtà tutti gli strumenti che sono attorno alla voce si scambiano il ruolo di leadership. Ci sono dei brani in cui è più evidente uno strumento. Bello questo, sì, hai detto. E brani in cui è più evidente un altro strumento, anche nel mix, cioè anche nel missaggio dei suoni. Cioè, sono brani in cui la voce è più fuori e altri brani in cui è più fuori il basso, altri brani in cui è più fuori la batteria. Questo perché nel nostro background ci sono questi ascolti. Questa forma è una forma tipica del jazz, sì, che è una forma in cui ci si passa la palla del solista in continuazione. Certo, posso farti una domanda così da quasi ignorante, no? Nel senso che, perché principalmente nei dischi che io vado ad ascoltare, quelli di musica diciamo rock, è più alta la musica rispetto alla voce? Io ascolto tanti dischi anche di questa generazione, insomma, di questi giorni, che fai fatica a capire cosa dicono. Poi magari lentamente all'interno della canzone riesci a capire la voce, ma all'inizio proprio veramente a volte sono inascoltabili, nel senso che non sai cosa sta dicendo. C'è un motivo, c'è un... Non te lo so dire. Io devo dire che la tendenza di avere la voce alta è una tendenza tipicamente italiana. E qui è la musica alta, di solito. Generalmente nelle forme cantautorali, per esempio, riferendoci a quelle, senti, essendoci magari il testo, questo probabilmente dipende un po' dal target, no? del pubblico che vuoi andare a colpire, e anche dal tipo di arrangiamento che stai facendo, dal tipo di canzone. Generalmente nel rock, come tu giustamente stai dicendo, c'è un'importanza fondamentale della musica, c'è un impatto di un certo tipo, quindi spesso la voce non è, anche se è un, diciamo, il cantante è quasi sempre un solista anche a livello di immagine, però a livello di arrangiamento la voce non lo è. Non è solista. Certo. E mentre in altre forme, diciamo un po' più cantautoriali, la voce diventa solista e quindi prende una dominanza anche a livello di suono. Infatti in Italia non esiste il rock, insomma, sono poche band che fanno il vero rock in Italia, lo fanno benissimo peraltro, però la tradizione nostra italiana è più una tradizione cantautorale, in cui invece lì puoi sentire... è una voce un po' più alta. Sì. Però se ascolti dischi anche tipo della stessa, non so, Alanis Morissette, tu senti una voce assolutamente dentro all'equilibrio dei suoni, come tu. Ma secondo me posso dare la mia versione ovviamente è più trasparente, senza peli sulla lingua. Secondo me nel rock ci sono tanti pessimi cantanti e quindi devono essere... Questa taglia a testa al toro, decisamente. Diciamo, no, era ovviamente uno scherzo, però sicuramente nel rock è meno importante il bel canto di quanto lo sia nella nostra musica. Ripeto, noi per tradizione la voce la vogliamo sentire, sì, no? In poche parole. Il bel canto era la tradizione degli anni, primi anni 60, poi è stato rotto detrimento dai gruppi beat, che hanno spaccato la tradizione del bel canto. E basta, adesso non sei più tu. Cambiamo. Non sei più tu l'oggetto dell'attenzione. Ma il gruppo, il chitarrista, il solista, quello esatto, che vuoi. Esatto, ecco, assolutamente. Davide, ma quanto ti piacciono gli Eagles? Dimmi la verità. Ah, bella domanda. Ma gli Eagles mi piacciono molto, non so perché mi fai questa domanda, ma non so da dove l'hai tirata fuori. Le tue passate... Le mie passate esperienze. No, nella tua biografia, che nella vostra... L'ho trovata qui, la leggevo sì. Adesso, la biografia vostra sul sito. Allora, in realtà... Scusami se ti interrompo, con il chitarrista Michele Mazzoli. Esatto. Avevate questa formazione. Assolutamente. Allora, io devo dire la verità, voglio dire una cosa in più su Michele, perché Michele è una persona che frequento ancora come amico... questo vale anche per Yari, nel senso che siamo rimasti ottimi amici. Assolutamente sì. Lui purtroppo ha fatto una scelta purtroppo per noi di non proseguire, diciamo, con la sua passione per la musica. E queste sono cose che succedono e bisogna raccontarle. Purtroppo ci sono tantissimi bravi musicisti che, per tanti motivi, per la mancanza di stimoli che viene data a volte nel tessuto del nostro paese, ma probabilmente anche di altri, insomma, abbandonano. E questo è un peccato, perché ci sono... Io sono amico d'infanzia di Michele, infatti io e lui ci conoscevamo già quando abbiamo incontrato Yarin, ma lui è la persona che mi ha fatto ascoltare i primi dischi, perché suo padre era un collezionista di vinili, proprio anni 60-70 e da lì in avanti. Ne abbiamo tanti anche noi. e quindi lui mi ha fatto sentire le prime cose di Jimi Hendrix, di Jeff Beck, i Doors stranamente, che non c'entra niente col funk, sono stati... Anche se non è vero questo discorso che sì, non c'era col funk. Hai ragione. Qualcosa sono arrivati anche là. Hai ragione. Il genio di Jim Morrison è arrivato anche al funk. Sono d'accordo. Però ecco, diciamo che sicuramente sono conosciuti più come gruppo rock, no? Certo. Però è stato un po' l'organo, direi, Manzarek a farmi... scegliere questo strumento, certo. Oltretutto infatti facciamo anche una cover, no? Infatti noi facciamo anche una cover dei Doors, assolutamente. Cosa? E la facciamo funky. Ah, che bello. Guarda, ti faccio solo l'accento. Vai. Attenzione. La vuoi tutta? Sì, vai. On the storm. Questa era una finta. Sono girato la penna. No, vabbè, stavo brutalmente imitando, ma noi la facciamo strumentale. Ottimo. Perché sì, insomma, Riders on the Storm è uno di quei brani che o la canta Jim, sì, o la canta Jim. Non può cantare nessun altro. No. Non sono così purista, insomma, però sicuramente non abbiamo fatto quel brano, ecco, per... ci piace l'atmosfera di quel brano, non necessariamente, insomma, la canzone Riders on the Storm. Anche a noi ci piace l'atmosfera, sai, quella musicale in studio qui ci piace da matti. Adesso ti ho fregato. Poi voglio sentire, anzi, battere sulla tavola un po' di percussione. Yari è pronto. Adesso facciamo una jam. È pronto. Allora, guarda. Dimmi. Posso... Te la lancio, eh? Sì, lanciamela. Te la lancio perché, visto che l'hai fatta sentire prima, direi che possiamo fare un brano che Yari non ha mai suonato con me. Ho paura. Hai paura, lo so. È un brano del grande Stevie, insomma. Mm. Che tra l'altro ho sentito anche che hai messo sotto. Sì. ma lo facciamo così, come esperimento. Tanto per... far vedere come può essere, insomma, un live acustico. Il live acustico free jam, che non hanno mai fatto niente. Tra l'altro lui non ha idea di come io la suonerò, perché non l'ha mai sentita. Però io non sa cosa ho in mente, capisci? Va bene. E il brano è Isn't She Lovely. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. as lovely as she? Isn't she lovely, made from love? Isn't she pretty, truly the angel's best? Well, I'm so happy we have been heaven blessed. Che bella, bravissimi, bravissimi. Non l'abbiamo mai suonata. Bravissimi. Si fa questo a Rock Wave. Non sapevo che esistessero le chiavi come percussioni. Vedi. Mi tavoli sì, però le chiavi no. C'è gente che usa qualsiasi cosa, certo, ma non stiamo a raccontare. Che faccia tosta. Bravissimi, veramente simpaticissimi. Sono, chiedo scusa per la voce, i Free Jam qui a Blu Radio Veneto. Sono le 23:19 minuti, già passata un'ora e mezza quasi, con Davide Candini e Yarin Munari. Oggi è giovedì, mercoledì, scusa, giovedì. Sì, domani sarei anche domani, perché giovedì, domani. Io ci sono sempre giovedì, va bene. Allora, oggi è mercoledì, dicevo, 6 giugno 2012, siamo assolutamente in diretta su Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, appunto con i Free Jam e con questa What's About the Funky. Però questa non faceva parte del disco, ma no, insomma, questo era un omaggio. Però un omaggio a Stevie Wonder. Dal nostro piccolo, ecco. È una delle canzoni forse più belle in assoluto della musica. Sicuramente una delle più ispirate. Vabbè. Decisamente. Il disco è autoprodotto da voi, vero Yari? Sì. Totalmente autoprodotto. E l'autoproduzione è una bella cosa, perché dà la possibilità di fare quello che si vuole. Però ha un'altra faccia della medaglia. La difficoltà di farlo conoscere, quel problema. Assolutamente sì. Il grande vantaggio dell'autoproduzione è proprio quello di poter gestire nel momento della produzione il prodotto e farlo andare in tutte le direzioni che vuoi. Il difficile è farsi sentire, certo. È riuscire ad avere visibilità, ma questo è un problema che probabilmente oggi è più diffuso di quanto si possa pensare, anche nelle major, credo. Anche quando che non esistono più, esistono ancora secondo te? No, ufficialmente esistono. Mm. Il problema è che in Italia, appena ci si sposta dal genere tipico, non so, del pop, insomma quello un po' più facile, ci si trova con le porte chiuse. Non sì, esattamente. Sono scelte commerciali, che... rispetto assolutamente, anche perché ci lavoro sì, molto, certo. Nel pop, però ecco, forse la differenza tra il nostro paese e gli altri da questo punto di vista, senza ovviamente sollevare critiche, però è che negli altri paesi c'è un po' più di apertura mentale verso generi, verso concetti, verso idee, ecco. Idee. Bella questa, mi piace. Verso idee, sì. A volte si stupisce della sua eloquenza. No, verso idee, hai detto una cosa giusta. Le idee, che qua in Italia le idee sono pericolose per certe persone. Evidentemente sì. Eh sì, evidentemente. c'è una chiusura totale, invece non è giusto che sia così. Negli altri paesi, come giustamente tu hai detto, c'è un'apertura, c'è il tentativo di apertura, c'è la voglia di sentire cose diverse da sempre le stesse. Sì, ma poi devo dire, sto notando con grande piacere che esiste un background di radio come la vostra. Per noi è un grandissimo piacere essere qui stasera, perché c'è un clima fantastico e sentiamo che c'è libertà, sì, libertà di idee. E devo dire che con piacere che stiamo scoprendo questo fermento che esiste ancora. E tutto sommato non ci dispiace. Non ci dispiace partire da questo tipo di divulgazione. E perché noi crediamo che questo tipo di divulgazione così vera, così libera, possa permettere alla nostra musica di arrivare in modo più genuino, ed essere apprezzata un po' di più. Poi, ovviamente, nel momento in cui c'è una grossa distribuzione, hai la possibilità di essere ascoltato, però la condivisione, questo tipo di condivisione, devo dire che ci piace molto. Pongo un quesito. Adesso vi faccio una domanda. Ma secondo voi, quando noi compriamo un disco distribuito da una major, lo compriamo perché ci piace? Posso essere... vuoi rispondere tu? No, sì, sì, possiamo rispondere tutti e due. Spesso io sono cattivo in merito. Spesso e volentieri compriamo il nome importante. Bravo. Quello compriamo. Non so se sia il mio caso, ma è capitato anche per me. Compriamo il nome importante, poi ci accorgiamo che su 10 pezzi uno è valido e gli altri 9 non esistono. E hai 20 euro in meno in tasca. E hai 20 euro in meno in tasca. E quindi, allora facciamo la domanda noi adesso. E quindi secondo voi, a questo punto diventa quasi una conseguenza il fatto che la musica non venga più comprata? Certo. Io... Che bello fare le domande. Io c'ho... preferisco sinceramente, da quando sono in questa emittente, proporre sempre comunque i cosiddetti emergenti, che non i big. Lo dico, lo ripeterò sempre all'infinito, secondo il mio punto di vista, modestissimo a mio parere, danno più emozione che non ascoltare a volte un cantante che poi magari ritritera sempre la stessa cosa, insomma. E invece ascoltare qui degli artisti, dei musicisti che magari, tra virgolette, senza offesa, non sono nessuno, non sono conosciuti. È correttissimo. Non sono conosciuti, e senti delle canzoni. Adesso, per esempio, tu hai fatto una cover, però se fosse stata una cosa tua sarebbe stata una cosa più bella. Cioè, voglio dire, una sera io faccio sempre questo paragone. È venuto un gruppo della regione dell'Emilia Romagna, faccio anche il nome, si chiamano Blue Stress, hanno fatto una ballata. Io avevo, ti giuro, non mi vergogno a dirlo, ero emozionatissimo, avevo la pelle d'oca, hanno spento la luce e hanno fatto quel pezzo a saluto con la luce spenta, avevo solo le luci dei monitor qua e del mio mixer, e ho ascoltato questo pezzo dal vivo che non conoscevo. Una cosa fantastica. Meraviglioso, guarda, hanno emozionato tutti, Maurizio lo sa perché eravamo in trasmissione insieme, quindi io dico, spesso e volentieri la musica non rispecchia i valori esattamente di quello che è il mercato. E di quello che le radio, e mi assumo la responsabilità, ti fanno ascoltare, perché non sempre fanno... No, infatti sto capendo che voi vivete la musica esattamente come la viviamo noi che la facciamo. Questa è una percezione... Sai, sì, io che Maurizio abbiamo cominciato negli anni 70, io nel 76 a fare radio, e quindi di musica l'abbiamo ascoltata tantissima, tantissima. E siamo pensa passati... che oggi ci siamo noi qui. Beh, anche voi avete ascoltato tanta musica, al di là di questo. Beh, ne abbiamo ascoltata, sì. No, ma il concetto è sempre quello, se uno vuole far musica, deve partire dal di dentro. Certo. Quando una casa discografica, chiaramente, io le logiche commerciali ci sono, punta al nome importante, al nome che vende. Adesso non si vende più niente, ma punta, non punta a un emergente. È uno sbaglio, lo so, ma almeno in Italia, anche all'estero, ma in Italia hanno questa in particolar modo devono puntare sul nome importante. Ma ci sono tanti altri nomi importanti, nel senso positivo del termine, cioè valenti, gente che sa suonare lo stesso, però non sono un nome importante, un nome che viene recepito. Ma si deve tentare qualche volta, ma loro non vogliono tentare, in Italia almeno no. In altri paesi capita anche, però in modo diverso. Un po' di più. Sì. Un po' di più, esattamente. Ci sono, secondo me, degli aspetti in Italia che sono particolari, forse per motivi proprio del tipo di tessuto che c'è. Noi non abbiamo grandi industrie, no? E allo stesso modo non abbiamo grandi imprenditori. Ce ne sono, però quelli grandi, nel senso che hanno l'idea e la portano avanti con determinazione, senza contare, senza porre attenzione ai rischi, ce ne sono pochi. E perché gli è sempre stato dato forse poco coraggio dal tessuto e dalla natura del nostro paese. E secondo me questo si rispecchia anche nella musica, nel senso che non c'è veramente, sono veramente pochi quelli che rischiano e puntano su quello che piace a loro. Non c'è più il Micocci di turno, sai, Micocci se n'è andato un po' di tempo, lui che era un talent scout, cioè cercava gli emergenti, lui aveva l'etichetta degli emergenti della RCA e li cercava proprio i nomi nuovi, De Gregori, Venditti, lo stesso Giorgio Locascio, che purtroppo se n'è andato un po' di tempo fa, era un grandissimo artista, ma scoperto da Micocci col Folk Studio, non esiste più. La Caselli, anche lei ha scoperto determinati artisti. Forse la Caselli è l'unica talent scout. Assolutamente. Non esiste più il talent scout. La gente ama i prodotti, già usa e getta. Sì. 2-3 mesi, un mese e poi spariscono. Quando trova quello che corrisponde a una cosa che va, no? Esattamente. Si dice così, una cosa che va, che funziona. Adesso facciamo andare la traccia 2. Ecco, vai. Sì, va la traccia 2 adesso. Quindi traccia 2, I Can't Live a Lie. Yes. Okay. Vuoi dire qualcosa? Ma è il brano di cui parlavamo prima, quello nato dal suggerimento del suono del ritornello, e poi da lì una storia assolutamente non autobiografica. La sentiamo dopo. Since we first met, now you look at me and still you're feeling no regret. Oh, I can't live a lie, even if it's wrong to say goodbye. If you let me stay the night, I'll show you I can make you change your mind. When I was not around, and now you can dismiss what we have found. An unexpected thing, I know, but still, why should you give up on your own will? This could be the last time that we see each other, so I wanted you to know it is so hard to let you go. It's wrong to say goodbye. Just let me stay the night. It's not too late to make you change your mind. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua ancora in diretta 23:32 con Agostino, con Maurizio e con questa band ridotta questa sera, questa 50% di questi Free Jam, Yarin Munari e Davide Candini. Insomma. Abbiamo sentito questo pezzo di cui ne hai parlato prima, lo hai descritto, l'hai ampliato. Aggiungo una cosa. Dimmi. Su questo brano, visto che l'abbiamo appena ascoltato, in questo brano ad esempio c'è ospite un chitarrista, Daniele Santimone, sì, che è un bravissimo chitarrista della nostra area, insomma del ferrarese, e ci ha omaggiato. Diciamo, per noi è stato un po' come un omaggio, nel senso che è venuto a fare questa registrazione in virtù di una amicizia di lungo tempo, e quindi per noi è stato veramente un piacere poterlo mettere tra i nomi, insomma, che hanno suonato in questo disco. Perché il discorso che abbiamo fatto all'inizio del programma è proprio una questione di free, di libertà, gente che viene a suonare, c'è il gruppo specifico, voi quattro, e poi altra gente che vi ha dato una mano, però se arriva questo chitarrista, dà il suo contributo, il suo modo di fare, la sua colorazione, si può dire così? Sì, io penso che un po' in un certo senso coinvolgi le persone che ritieni adatte a raggiungere un certo tipo di sonorità, ma sempre persone con le quali o io o Yarin, insomma, abbiamo collaborato, sì, e che quindi in un certo senso conosciamo. Altre volte inaspettatamente si trovano persone suggerite da altre, no? E poi ti trovi in studio e incredibilmente nasce questa intesa improvvisa, e secondo me questo è uno dei più grandi valori della musica. La musica unisce, musica è linguaggio universale, no? Certo. Perché? Perché mandiamo nello spazio le musiche? Giusto, d'accordo, e Yari citava una cosa, il jazz è proprio il punto maggiore di unione totale, perché non c'è una condivisione sempre nel jazz, tu che hai abbracciato anche questo genere. Sì, la cosa bella di suonare è che nel momento in cui esegui, e soprattutto quando hai la possibilità di improvvisare, improvvisazione, sì, esatto, tu stai raccontando una storia, no? E è come se raccontassimo tutti quanti qui dentro la stessa storia, però ognuno la personalizzasse un po'. È vero, questo è il bello di interagire con anche con molti musicisti, con musicisti esterni al gruppo, perché abbiamo sentito questa esigenza di raccontare una nostra storia, però vista anche dagli occhi e dall'arte di qualcun altro, di qualche nostro amico per il quale noi nutriamo profondissima stima. E però è questo, no? È questo è una forma ulteriore di condivisione, far raccontare la tua storia ad un altro. Bene, è una cosa giustissima. Ok, sono le 23:36. Si sente che è una derivazione del jazz, però. Sì, ha parlato da una certa maniera. L'improvvisazione. Sì, ma il funky, può essere anche improvvisazione. Funky. In realtà, nasce anche come improvvisazione, anche quella, c'è poco da fare. In realtà il funky, così come il jazz, voglio dire, sono tutti figli del blues, sono tutti figli del blues, sì, la radice è la medesima ed è assolutamente, secondo me, curioso il modo in cui poi dei generi, allora intanto il jazz e il funky non sono generi, nel senso che sono mondi, no? Esatto. Quindi dopo al loro interno c'è voglio dire, il funky, un conto è, parliamo del funky James Brown, i Meters, quindi Maceo Parker, insomma tutta una colonna di pionieri del funky, è un altro aspetto che tra l'altro non so se lo sapete, ma ho scoperto che James Brown ha cominciato a suonare così perché ascoltava Lionel Richie. Ma non lo sapevo. Little Richard. Sì, perché scusa, poi è un scusa, po' ho avuto un... Little Richard. Che sono comunque due personaggioni in ogni caso, ma ovviamente mi riferivo a Little Richard, ecco. Per una questione anagrafica. Per una questione anagrafica, certo. Ma anche per... Sì, ovviamente. Però per me è stato sorprendente dire, caspita, ma come ha fatto questo qua che ascoltava Little Richard, che comunque è bravo. Grandissimo della musica. Sì, pianista. Però se io ascolto Little Richard... Non ti dice niente. Non ti piace. Il modo di cantare al massimo, no? Ma quella musica, quella cosa... Quel mondo di James Brown, come è nato, no? Quelli secondo me sono i germi che... È una storia raccontata in un altro modo, no? Sì. E questo secondo me è veramente la cosa curiosa, di come nascono questi mondi... chissà, insomma, i Free Jam... I free jam si infilano si infilano un po' a metà tra questi tanti mondi, come... Del resto non è una cosa, non è una prerogativa esclusiva dei Free Jam, chiaramente. Però a noi piace quella dimensione, cioè l'idea di sentirci un po' tra queste bolle, no? Nella zona in cui si intersecano. E, è bello, c'è spazio. Maurizio, che dici? Li mettiamo in difficoltà adesso? Sì. Facciamo il giochetto? Ah, facciamo il giochetto. Sì, sono 23:38, siamo un po' in ritardo. Però possiamo recuperare. Fammi indovinare. Oddio. Dai. Fatti una domanda e datti una risposta. No, non è proprio così. Non è Marzulliano. Non è Marzulliano. Ma ci siamo andati vicini comunque. Allora, no, niente. In versione molto, molto simpatica. E cosa ascoltate voi di musica? Cioè, io l'ho fatta prima anche a Tiziano la domanda, ma in questo caso è più specifica. Nel senso che noi diciamo sempre: se andate in un'isola e vi dovete portare per forza di cose solo ed esclusivamente 3 dischi, certo. Cosa vi portate? Chi è che comincia? Yarin ci sta pensando. Non so se vuoi. Non è valido copiare. Ma vai tu, sono troppi. Guarda, allora, io sicuramente non posso non portarmi dietro un album che per me è stato il momento in cui l'ho ascoltato, in cui l'ho conosciuto, è stato l'album che mi ha detto io voglio suonare. E questo penso che ogni musicista dovrebbe farlo, no? Hotel California? No. Anche se, insomma, sì, dopo non abbiamo approfondito su Diego, ma poi, insomma... No, è sicuramente l'album d'esordio di Stevie Ray Vaughan. Vai su... E questo perché? Perché, come vi dicevo prima, avendo questo amico il cui padre collezionava dischi, insomma, ho sentito questo suono di chitarra molto unico, bravo. Unico, cioè, veramente, e tra l'altro tutto l'album con un suono molto particolare, Texas Flood, quindi penso sia quello d'esordio, non è sì, che sia così sicuro. Adesso non ricordo la discografia che è abbastanza... ma mi pare di sì. Sì, ma tutti... dischi decisamente molto interessanti questi video. E quello perché ha un legame particolare con il fatto di essere poi diventato musicista, insomma. Sì. Però se dovessi invece scegliere qualcosa che mi piace sempre e comunque avere con me da ascoltare, probabilmente andrei su un Songs in the Key of Life che abbiamo citato adesso. Prima abbiamo citato. Esattamente. E c'è anche un altro disco che porterei. Mm. Che questa però vi coglierà di sorpresa. Ha acceso la tastiera. Aia. Bene, aia in senso positivo. No. Non so perché. E anche qui non so perché. Prima vi ho detto in realtà cosa ascolto. Adesso io ho ascoltato gli Allman Brothers, gli Eagles. Grazie per Songs in the Key of Life, fra l'altro, Sir Duke. E poi, insomma, poi si va avanti, si ascolta. Billy Joel è un artista che a me ha ispirato molto per la sua... Un po', tra l'altro Tiziano prima ne parlava, questa capacità di cantare storie, no? Canta storie. Billy Joel è di fatto un discendente di Bob Dylan da questo punto di vista. In tastiere, con le tastiere possiamo dire. Con le tastiere, sì. Lui, però Dylan, con la chitarra, lui Dylan tastiere. Lo ha omaggiato, sì, certo. Ha fatto esordi che erano assolutamente nell'onda di Bob Dylan. Poi chiaramente ha preso tutte le strade possibili, strada, certo. Tra cui sposare fotomodelle. Sì, quello era un optional, però, praticamente. Questo l'ha fatto anche Stevie Wonder, sì, quindi... Ecco, in ogni caso la musica che più in un certo senso mi colpisce ancora perché she can kill with a smile, she can wound with her eyes. Questo è essere cattivo. Però John Hiatt. Ah, bello, bravo, hai scelto un'ottima John scelta. Hiatt, Bring the Family. Bello, ma perché c'è questa? Solo una strofa per non opprimervi. When the road gets dark, you can no longer see. Just let my love throw a spark and have a little faith. Ti ringrazio perché sono anni che non lo sentivo più. Veramente, io questo disco l'ho comprato in vinile, l'ho sentito centinaia di volte, soprattutto questo pezzo, l'ho ricomprato in CD. È un disco bellissimo, è il disco dell'esplosione di John Hiatt, finalmente, dopo tanto tempo. Adesso ha fatto tante altre cose, però quello rimane il suo capolavoro in assoluto. Assolutamente. Sei stato bravissimo e ti ringrazio un'altra volta a farmelo ascoltare. Un po' di tempo. Ho una percentuale sui sì. proventi di quell'anno. Esattamente. È bellissimo, complimenti. Ok, tocca a te. Allora, beh, anch'io devo dire... T'ho fregato. Io ho fatto allora, fatta d'effetto. Posso copiare i suoi? No, allora, devo dire... Mi piace pensare di portarmi i dischi con i quali anch'io mi sono approcciato alla musica. Allora, il primo è Led Zeppelin 4. Led Zeppelin 4 per tutto, per i contenuti del testo, per tutto. Per Bonzo. Suonava Bonzo. Bonzo è il mio idolo, uno dei miei idoli assolutamente. Però per tutto, per gli arrangiamenti, per la versatilità, è una band attualissima proprio. Il secondo disco invece che mi porto via è... Ecco, questo non si può non portarlo via. Non si può. Il secondo disco invece che mi porto via è quello con cui mi sono avvicinato al jazz, che è Kind of Blue di Miles Davis. Il terzo invece è una delle ultime cose, insomma relativamente ultime, che ho ascoltato, che sono gli Steely Dan, Asia. Perché quello è uno dei... È uno dei miei obiettivi, è stato sempre uno dei miei obiettivi, quello di raggiungere un livello così complesso, armonico, però continuando a parlare di cantautorato, perché di quello si tratta. Sono tutti dischi vecchi. Ci sarà un perché. Ma gli Steely Dan hanno sempre avuto questa caratteristica, diffondere determinate... Cioè il funk sì c'era, ma non c'era solo il funk, no, esatto. Una fusione totale. hanno fatto pochissimi dischi, ma quelli che hanno fatti sono rimasti nella storia della musica. Diciamo che sono per pochi intimi, giusto? Cioè, per chi ama la musica di qualità. Sì, sì. Beh, qua, per noi qua, sì, in realtà hanno un seguito pazzesco in America. Però sì... però io posso andare avanti se, perché, no, sono tre. Mi dispiace perché sono tanti. Pensavo ti portassi un disco dei Free Jam. Ma qua ci avevo pensato. Solo per il fatto che ho faticato così tanto a farlo che ogni tanto ascoltato. Però è come dire, lasciare fuori altre cose è veramente dura. Anche i dischi solisti degli stili dance, sì. Potrebbe. Di cui uno famosissimo che rimane, Donald Fagen, chi non conosce Donald Fagen, quel famoso Nightfly, fantastico, un disco che ha tessuto le lodi di tutti, fantastico. È stato straordinario, è stato in classifica tanto tempo ed è stato in classifica nella mente di tutti da tanto e rimarrà sempre, poco da fare. Però poi lasciamo, come fai a lasciare fuori i Beatles? Stevie Wonder. Però se viene Davide con me, Stevie Wonder lo ascolto. Esatto, perché l'ho portato via. Questo lo posso lasciare fuori. Vabbè, insomma. Che dite? Facciamo ascoltare la traccia che apre il vostro disco e poi torniamo in studio per gli ultimi minuti. Ottimo. Con piacere. Allora, questa è la canzone che, come appunto poc'anzi ho detto, apre il disco dei Free Jam, cioè What About the Funky, e la canzone in questione si chiama Catch the Monkey. Motivo su questa canzone? Te lo diciamo dopo. Va bene, come l'ho detto. Ascoltiamo la canzone. Jumping kangaroo. cock. He likes to rock. See the bare feet in the air. See the donkey. He plays the trumpet. He joined the monkey. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Posso riproporre l'inizio? Grandi. Ed è così che comincia, cominciotto l'album. Allora, tu chiedevi perché Catch the Monkey. Catch the Monkey. Questa è una bella questa storia. Questa è bellissima. C'ha una sonanza con la canzone di Peter Gabriel. Sì, Shock the Monkey. Esattamente. Allora, non c'entra assolutamente nulla. Però è un caso che non c'entri sì, nulla. Certo. No, allora, questo brano in realtà è uno di quei testi suggeriti. E questo in particolare lo abbiamo messo all'inizio dell'album, un po' perché rappresenta quello che è per noi l'idea di funky, e quindi un funky moderno, un funky in stile Tower of Power, se vuoi, insomma. Però soprattutto perché era un brano rappresentativo di quella che era stata la storia dei Free Jam, almeno negli ultimi 15 anni. Questo è un brano che è nato grosso modo nel 96, 95, 96. E questo è veramente cambiato poco, quindi significa che già dopo 3-4 anni che ci conoscevamo avevamo preso quest'onda un po' particolare. E Catch the Monkey è stato Catch the Monkey with the Funky, with the funky. Tutta la frase è stata suggerita dall'allora chitarrista Michele Mazzoli, quindi ecco. Questo è un po' è un simbolo per noi. Tutto il resto poi è venuto da sé, tutta la storia del brano, che è molto divertente e tutt'altro che serio come testo, è un po' la filosofia, insomma, di quello che ci sarebbe piaciuto come oggetto dell'apertura del CD, ovvero mettere un po' di allegria e cercare di portare, insomma, un po' di allegria con il funky dove magari si tende a perdersi un po' nel blues. Questo è il blues è inteso non come blues la musica, ovviamente, ma come stato blu dell'anima. L'inconia. Michele vi ha suggerito questo, e mentre Alberto Pisco, il nostro curatore e direttore artistico, vi ha suggerito a noi della redazione, fate venire la band a suonare, abbiamo fatto enormemente bene perché siete venuti qua stasera. Ridotti finché volete, però avete suonato, avete dato il vostro impulso, avete dato il messaggio, è quello che conta, sì. Il messaggio. E se mi posso associare a quello che ha detto il mio caro amico, il disco parte con un pezzo come l'abbiamo appena descritto e finisce con un pezzo così, sì. Perché il disco si chiude con un brano che si chiama Yeah Yeah Believe It, che significa sì sì, credici, e che ha assolutamente lo stesso spirito di Catch the Monkey with the Funky, proprio per farvi capire in che modo lo abbiamo concepito il disco, no? Facendo finta di essere leggeri, ma facendo finta. Basta, perché poi altrimenti... Ah, sì, sì. non mi comprano più il disco, lo scaricano. No, infatti, vediamo che... No, sto scherzando, ci mancherebbe. A proposito, il disco... Comunque, se qualcuno lo vuole, esatto, gliene passiamo noi una copia masterizzata, sì. Ci mancherebbe. Sì. È già... Non ci abbiamo speso niente, su. Dove si può trovare invece il vostro disco, ragazzi? Il disco lo trovate su CD Baby, CD Baby. .com. E, come formato digitale, altrimenti ci sono alcuni punti vendita che però vi suggerisco di richiedere l'amicizia al nostro gruppo Facebook, che è Free Jam, molto semplicemente, quindi marmellata gratis, mi raccomando. C'è anche un sito internet che è freejamband.com, anche lì potete comunque approfittare per chiederci informazioni, oltre a leggere alcune delle cose che abbiamo detto questa sera. E soprattutto, insomma, io, se posso, mi permetto di approfittare di questo bel territorio, non solo per questa volta, è solo per questa volta, questo bel territorio, per pubblicizzare, insomma, l'evento di presentazione del CD che facciamo il 15 di giugno al Teatro Don Bosco a Rovigo. Spiego brevemente perché lo facciamo a Rovigo. Noi avevamo la presentazione del CD formalmente già fissata, con tanto di gente che si era prenotata e quant'altro, per il 22 di maggio, al Teatro Comunale, insomma una delle sale comunali a Ferrara. Purtroppo il terremoto è arrivato e, insomma, tutto quello che era pianificato è saltato. Noi non ci siamo sentiti di farlo troppo ravvicinato in termini di tempo, e soprattutto abbiamo preferito spostarci, perché probabilmente una presentazione vera e propria anche nella nostra città, diciamo così, di riferimento, lo faremo più avanti. Quindi diciamo che per il momento, se qualcuno dall'area di Padova, Rovigo, Verona, Ferrara anche, perché no, vuole venire a sentire il concerto live, mi raccomando, con tanto di fiati, cori e quant'altro, di presentazione il 15 di giugno al Teatro Don Bosco a Rovigo. Alle 21.30. Alle 21.30, allora, ottimo. E poi ne avete un altro di concerto al Reload Festival di Ferrara. Sì, quello sarà il 7 di luglio, se non erro, io mi sbaglio sempre con le date, un concerto che sarà un po' più avanti, esatto. Sarà in zona Ferrara, quindi se qualcuno manca il primo. Cioè. Poi c'è un'altra intervista alla Radio Sound, giusto? Sì, in realtà il calendario non è nemmeno aggiornatissimo quello. Ci sono un po' di eventi già chiusi. Poi altri. Ti sobbertiamo. Sì, quelli sono quelli chiusi, ce ne sono altri che stiamo chiudendo. Devo dire che, nonostante siamo partiti da poco, non ci lamentiamo. Stanno uscendo Bene, un po' di eventi. Bene. Allora, noi vi ringraziamo, sono quasi le 24 in questo preciso istante. Sì, mancano 3 secondi. 3 secondi. Incredibile, è volato. Vabbè, se volete stiamo qui fino a mattina, non c'è problema. Per noi va bene. Sì, va intanto benissimo. Lui deve lavorare, ha detto, quindi lui suona. La tastiera è ancora accesa. Ci mancherebbe altro che fosse spenta. Il tavolo c'è. Cosa ci fai ascoltare per salutarci? Allora, per salutarvi vi faccio l'unico brano strumentale. Senza percussioni? Senza percussioni, no, wow. Senza percussioni, sì, senza sì. Percussioni. Sì, direi di sì. Aspetta. Non sto partendo. Mi stavo preparando a presentarlo. Nel senso che è un brano che... lui fa così, sì, quando inizia a parlare, poi si fa la colonna sonora. Esatto, perché io di solito faccio... sono tremendo. Posso aprire una piccola parentesi? Ma certo. Torniamo al disco. Non vi ho chiesto, com'è il vostro rapporto con i vostri fans? Io... Ho sempre pensato una cosa, che questo purtroppo ce l'ho da quando avevo 20 anni e non è mai cambiato, che la cosa più bella nel fare musica propria è vedere la gente che canta le tue canzoni. E se io ne trovo uno, quello è mio amico per tutta la vita. Questo è il mio rapporto con il pubblico. Con il pubblico. Okay. No, siamo così come siamo qua, insomma, nel senso che il nostro spettacolo è sempre il tentativo di vivere un'esperienza divertente insieme. Certo. Quindi spero che la gente si senta coinvolta quanto noi ci sentiamo coinvolti da loro, insomma. Dicevi della canzone? Il brano è... l'introduzione a That Light, in realtà si chiama Toward That Light, quindi verso quella luce, ed è un'introduzione strumentale scritta completamente da Yarin, quindi qui sentirete le sue capacità di autore non ritmico, ed è un, secondo me, questo brano è un po' un marziano all'interno del, del disco, ma è un po' il lancio, il lancio di un altro, sì, un altro tipo, sì, un altro percorso, un altro, esatto, un altro genere, esatto. Che chissà, magari il prossimo album potrebbe essere anche più, ma marziano più perché? È marziano perché non è né pop né funk né esula un po' dal come stile dal resto del... sì, indefinibile, dai, possiamo dire così. Io lo trovo molto Kate Bush. Certo. Bene, Maurizio, noi diamo un appuntamento tra 20, anzi, tra 21 ore, perché sono mezzanotte e 2 minuti adesso. Alle 21 siamo qui di nuovo a farvi compagnia con un'altra telefonica e un altro live. Domani sera abbiamo Roberta Barabino alle ore 21 fino alle 22, sempre qui a Blu Radio Veneto, ovviamente sempre dal vivo, però telefonicamente. Poi abbiamo una cantante che ci arriva dalle Marche ed è Frida Neri, che è già stata nostra ospite ed è un gradito ritorno, viene a trovarci a presentarsi il suo ultimo disco, che è uscito qualche mese fa. Doveva venire a gennaio, poi invece è saltata perché ha fatto la presentazione in un monastero bellissimo, sperduto sopra un monte, una scena bellissima veramente, e l'abbiamo comunque qui domani sera. Blu Radio Veneto vi saluta, vi auguro una buona notte, vi lascia con l'ultima canzone di Free Jam e un buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi, sempre qui comunque in queste frequenze. Ciao ragazzi e grazie ancora. Ciao. Ciao. Ciao, buonanotte a tutti. Io sono aperto, sei tu che non sei. Io ci sono. Sono. Perché doveva essere così, voglio dire, a un certo punto deve pure arrivare un motivo per cui uno... Ve la faccio a voce, se volete. No. Ma ti posso dare un altro suggerimento? Certo, vuoi che faccia... Potresti far partire la traccia numero 6. Va bene. Guarda, visto che il mio pianoforte ha smesso di funzionare in questo esatto momento... Io sono a posto, sono tutto a posto. Sto guardando che non sia colpa del mixer, ma io sono a posto. È che si rifiuta di uscire dal pianoforte questo brano. Ah, ecco. Allora, come si chiama la canzone che dicevi? Si chiama Toward That Light, è la traccia numero 6. Ok. Preso in corsa. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.